Il problema è che tu non puoi lasciar fallire uno dei 16 paesi senza buttarlo fuori dall'euro. E se lo incomincia a fare con Atene, il giorno dopo i mercati pretendono ugual trattamento a Lisbona e poi si arriva all'Italia. In altre parole, l'euro è costruito sulla premessa che i 16 stati sono buoni l'uno come l'altro. È inutile continuare a parlare di Grecia. Io voglio sapere se la Germania è in grado di ripagare il debito greco, visto che è messo nella stessa moneta. Questo è il dramma. I nostri 16 capi di governo lo sanno che governano una moneta che si regge sull'ipotesi che ciascuno di essi è bravo come gli altri 15.